All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Applausi, applausi. Salutiamo gli amici di Radio Bombay che hanno deciso di trasmettere, pensa tu, anche la trasmissione della cena dei regini. Hanno accolto nel loro palinsesto l'unica trasmissione regina del pianeta Terra. www.bacco.it/cena e cena@bacco.it per commentare anche questo episodio assieme. E noi iniziamo con lo spazio delle notizie dall'House. Che è successo questa settimana? Naturalmente la qualunque, perché all'House la vita non è mai noiosa, esattamente. Quindi una settimana di cinema, giochi da tavolo, concerti, musica e quant'altro. E adesso si prospetta un'altra settimana importantissima, perché comunque venerdì, sabato 7 verranno i 17 Friday dei Palmi. Loro sono scatenati, verranno a fare un concerto di musica gothic metal veramente straordinari, quindi da seguire assolutamente. E venerdì 30 ritorna, grande richiesta, la Jam Session, quell'originale, non dove vai tu dagli amichetti tuoi sotto scala di quel localino in centro che ti fa tanto piacere, che ti dà la birra a un euro. È quell'originale, quella vera. E tu verrai con la tua chitarrina, portati lo strumento e scatenati sul palco dell'House of Bach. Quindi ragazzi, venerdì 30, Jam Session Original. E poi infine tutto questo fa parte della Gilda degli Artisti, l'associazione che ogni tanto bisogna ricordare di promuovere, perché giustamente ogni nuovo gildato dà una voce in più a questo posto. Quindi iscriversi è facilissimo, si richiede la gildatura online tramite gildartisti.org. La gildatura è gratuita, basta fare l'iscrizione, compilare un comodo form e insomma senza nessun impegno si può entrare a far parte di questo splendido mondo. Ragazzi, questa è la seconda puntata della terza stagione della Cena dei Regini. Noi torniamo tra poco dopo un piccolo spazio musicale alla Cena dei Regini, terza stagione. Blue light. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati con l'angolo delle notizie dalla strada, quelle più divertenti, quelle più inutili, quelle che non avresti mai avuto il tempo da perdere a leggere e noi te le propiniamo e te lo facciamo perdere, l'utile tempo della tua vita che sprecherai guardando questo blocco della puntata. Sei contento? Commenta la cena@mag.it oppure vieni a visitare il sito www.mag.it e clicca la cena dei regini per seguire questo ed altre puntate della trasmissione. Ora passiamo all'angolo delle notizie, quindi le nostre notizie sempre più inconsuete e tranquilli, cena al buio, il buio, la paura. Quale grande inconveniente è, quale grande paura, specie quando si vive in coppia, il russare. Il russare è un grande problema, specie nelle coppie giovani, però gli scienziati, comunque diversi siti internet hanno trovato la soluzione scientifica per smettere di russare. La soluzione è scientifica ed è semplicissima, è un succo fatto anche di ingredienti abbastanza naturali che si ottiene con due mele, due carote, un quarto di limone, un bastoncino di zenzero scolato a freddo, non russi. Chi di voi ha questo inconveniente? Nessuno lo dice, perché giustamente perché rovinarsi nella trasmissione è così. È giusto, però sappiate che con queste cose tu sei lì che vuoi comunque riposare un attimo, ti scoli queste due mele, due carote, un quarto di limone e via, e risolvi questo annoso problema. Ma come funziona? Perché? Bevi, dormi, capito, non russi. Perché? Perché altrimenti è un problema, cioè magari c'è quello che c'ha il respiro, diciamo, un po' profondo durante la notte, chiamiamolo così, e quindi potrebbe non funzionare. Pensa a quante coppie adesso in questo momento stanno tirando un respiro di sollievo, comunque, perché risolvere questo problema. Dove hai insegnato a te questo? Internet. Internet. E come si ogni cosa lo insegna internet. Degli scienziati sono messi là ad elaborare questo succo, questa ricetta, e l'hanno pubblicato e pensato, pare che funzioni, un toccasana per chi ha questo problema. Ragazzi, anche queste cose si risolvono grazie a internet, ma c'è una crisi che è profonda, è radicata nella società e sta toccando anche un'icona a livello mondiale. Un'icona toccata dalla crisi può essere, ad esempio, un'icona, una cosa che avete visto decadere con la crisi. Ma un personaggio. Qualsiasi cosa. Lui è decaduto con la crisi. La gioventù regina decade con la crisi. Già, era una cosa che comunque anche prima della crisi succedeva. Barbie, l'icona al femminile di, penso, modello di molte ragazze, non tutte, però. Però comunque questa può essere anche un'idea. La Barbie è in forte crisi economica, per il quinto trimestre ha avuto delle perdite, tanto che il dirigente della, ci sarà una sezione Barbie all'interno della Mattel, è stato mandato a casa, l'ultima Barbie, questi mega dirigenti che vanno a casa, anche quello della Barbie va. Vedi la crisi, il mega, cioè, direttore, come si tocca con mano la crisi, anche in queste cose. Barbie, l'ultima Barbie che vedrà la luce sotto questa era di questo Brian Stockton, si chiamava lui, è Barbie supereroina, cioè c'è, cioè, questa versione Barbie Princess Power, si chiama, che doveva ispirare le bambine ad essere super, e invece ha mandato a casa il direttore, pensa tu. Quindi la crisi che tocca tutto. Ma una Barbie moderna, tu dici Barbie divorziata, una Barbie che vi viene in mente, Barbie casa e chiesa, ad esempio, con il rosario. Mi sembra molto più Barbie col rosario, però tipo una rivistina strana, un DVD così, eccetera. Lei vuole giustamente il suo riferimento. Una Barbie moderna, quale potrebbe essere? Barbie stai zitta, giustamente. No, questa di maschilista. Queste cose maschiliste non dovresti dirle in trasmissione. Una Barbie che potrebbe essere Barbie dei nostri tempi. Barbie divorziata per te è il top, cioè quello che rappresenta esattamente tutto. Barbie web star, Barbie youtuber, tipo, che spacca le cose, che fa i video, eccetera. Di tutto. Barbie rifatta, Barbie Botox. Prendete nota, queste cose bisogna assolutamente fare la versione cinese della Barbie la piazzerà, ragazzi. Grandi inconvenienti, anche l'inconveniente di trovarsi a corto, diciamo, del profumo. Quando il profumo svanisce durante la serata, c'è il anche qui gli scienziati hanno dato risposta a questo problema. Studiando esattamente qual è il metodo migliore per indossare il profumo, cioè per metterlo addosso affinché duri per tutta la serata. Quindi bastano due gocce e basta, però bisogna farle nebulizzare e poi passare attraverso la tube di profumo, che io pensavo fosse una soluzione dei cartoni animati, non pensavo che veramente fosse produttiva in questa maniera. Invece gli scienziati confermano che è il modo migliore per mettere il profumo. E poi passi in mezzo, lo attraversi. Altri punti strategici, cose che lascia stare. Ho letto nel pensiero. Ormai sono qui al gruppo del perché è il lusso anche questo, cioè avere il profumo e farlo durare per tutta la serata, però lo devi mettere in questa maniera particolare. Penso che gli scienziati hanno sprecato il loro tempo per ideare questa, per la nube, il metodo della nube, pensate. Ragazzi, il lusso di avere il profumo è anche il lusso di visitare posti pazzeschi, che possono essere ad esempio Scilla, ad esempio Scilla Bagnara, no? E poi Cardeto. Cardeto, ragazzi, è proprio per località così in come Cardeto. È stato progettato, ancora da studiare, è un po' ambito come progetto, un hotel scolpito nell'ametista. L'ametista, questa pietra pazzesca, bellissima, eccetera, che avrebbe tante influenze, tante proprietà sulla salute, sul benessere psicofisico umano, eccetera. E quindi l'idea di questi architetti un po' scellerati, diciamo così, dal nome Studio NL Architects, cioè quindi questo studio che ha elaborato questa cosa, sarebbe creare un hotel all'interno di un'enorme ametista, con la convinzione anche di farlo portatile. Quindi fai questa grande ametista, le persone ci dormono dentro, poi dopo qualche settimana Cardeto non è più in, andiamo a Gambari e portiamoci l'ametista. da fare. Cioè, pensa, quante cose belle, c'è quello che si porta dietro il camper, c'è quello che si porta dietro la tavola da surf, la moglie. Allora, questa punta di maschilismo che pernea questa puntata. Io sono zitto, stai facendo tutto. Questa puntata la vedo sull'orlo del maschilismo, ma ragazzi, bisogna stare molto attenti. C'è chi si porta dietro benevolmente, nel senso con piacere, la moglie. C'è chi si porta dietro l'ametista hotel, voglio dire, si può fare di tutto nella vita, no? Perché? Perché no? Assolutamente, soprattutto con la tecnologia. Ad esempio, una grande moda degli ultimi tempi, Andrino lo sa bene qual è, il selfie. Quindi farti la foto da solo, una volta si chiamava autoscatto, adesso si chiama selfie. A te piace, perché comunque le foto che viene, tu pensa come sarebbe, ma questo è peggio, l'aggeggio perverso 2.0 del selfie. Tu pensa come sarebbe la mattina, ti alzi e sul pane tostato c'è il tuo selfie. L'hanno fatto, cioè c'è questa azienda che produce tostapani che riproducono la foto, il selfie che tu gli mandi sul pane. È fantastico, cioè l'egocentrismo che viene toccato a te, tu già stai... Lo puoi ordinare tramite internet, il costo è relativamente basso. Ma ci vuoi mettere comunque immagine, non solo selfie. Ovviamente. Si chiama selfie toaster, quindi nasce per quello scopo. Le dimensioni sono. Se lo trovo in circolazione non me la compro. Ah, ma attenzione! anche insospettabili. Cioè, la mattina c'è quell'Andreina così che ti guarda dal tuo pane tostato così appena. Ma è bello, è fantastico. Cioè, per noi egocentrici è il massimo. Cioè, non ho capito. Più di questo cosa? Gli scacchi. Gli scacchi con la tua mano. Volentieri a vedere le correre. Già, tu quindi tu lo compreresti? Sì, sì, sì. Bello, bello, perché comunque tu mandi un'immagine di 150 kilobyte e loro te la ti producono questo tostapane. Tu volevi mandare quello? No. Perché no? Non più sarcastico del tuo sono, lo puoi ordinare tramite internet, è un'azienda americana che lo produce e te lo manda a casa. Ah. Al momento è solo su ordinazione, perché sono cose comunque. La Roberta guarda, se lo dici lo fa. Sì, sì, lei ti ha preso in parola. Sta scherzando, bisogna proferire parola, perché il pane tostato con Andreina sopra io lo voglio, ce lo pretendo. ragazzi. Ma ragazzi, oltre il selfie, per andare verso la chiusura, qual è il fenomeno del momento? Il vero fenomeno del momento in queste ultime settimane, diciamo così, ha invaso le bacheche, i forum, le cose di tutto il mondo, e si chiama Dub Smash lo già no. Ha fatto follia questa piccola è una piccola app per cellulari dove tu praticamente puoi registrare un tuo video abbastanza corto su cui viene montato dall'app un audio preso o da un archivio che hanno loro, che già è vastissimo, oppure puoi anche inviare il tuo file audio e quindi sarai doppiato da questo file audio. Grande successo per questa cosa, cioè che veramente su Facebook soprattutto su tutti è a condividere, ma soprattutto è molto significativo il fatto che il top, diciamo, di queste cose condivise con Dub Smash hanno come protagonista tale Jenny Savastano di Gomorra, cioè questa serie televisiva dedicata alla mafia, diciamo, in zona Napoli, eccetera, quella di Saviana. Jenny Savastano è il top degli audio doppiati su Dub Smash, quindi questa nuova moda che riprende queste cose. Voi non avete fatti video con Dub Smash? No. Dicono tutti così e poi, poi li vedi, ovviamente. C'è veramente di tutto, anche con risultati abbastanza sconcertanti più delle volte. E poi pensa, Jenny Savastano, quindi questo personaggio, che ad esempio una frase famosa di Jenny Savastano è ciao. Ma no, ma non è così, è alla Gomorra, quindi... Ma non l'ho mai visto Gomorra. Devi fargli Gomorra. Fai la faccia. Fai la faccia e adesso dillo ciao. Dillo adesso ciao. Ciao. Sta senza pensare. Ciao mio. Però non dovevi dire più forte, così non si sente. Ah, pure. Questo ragazzo merita un cappotto di cemento. Benissimo così, ma adesso ragazzi, ultima notizia, si sa, l'ultima notizia è quella col bollino rosso, quella più un po' più piccante, un po' più così, preparatissimi loro due soprattutto, dai. Andreina, pensa tu, problemi di coppia tra le lenzuola, ragazzi, succede, cioè, penso che sarà così alla notte dei tempi, però adesso c'è una grande novità, una grande... grande moda, l'istruttore del sesso, cioè questo trainer che diventa tuo amico e ti suggerisce delle cose da fare, cioè come a dire, ti dà delle indicazioni. E questo è l'argomento abbastanza intricato, perché secondo questo speciale, questa indagine che hanno fatto su questa nuova figura professionale, quindi si parla tanto di crisi, ma come vedi, quando si vuole il lavoro, come si dice, bisogna inventarselo. E quanto posso farvi pagare per questo? Ti devi accontentare un attimo di quello che la coppia è pronta ad elargire. Però comunque la cosa interessante è studiare questo rapporto di amicizia professionale, oltre che ludica, diciamo, con questo tizio. Quanto sarebbe bello fare l'istruttore del sesso. Guarda, dai subito. Perché tu no? Stai là e no, se dici adesso fate questo. Mi raccomando proprio. Poi mettere il cecchino. Domani posso dare anche voti? Ovviamente, dai. Domani cuochi a poliziotto, dopodomani pompiere e principessa, e tu stai là e ti danno i soldi. E in più diventano tuoi amici. La crisi. Ma anche attenzione, Andreina, tu confermi, sarebbe utile, cioè, uno che ti dice un attimo, ti dà degli spunti. A volte capita, in questa crisi che c'è adesso. Anziché andare dallo psicologo. È una figura, cioè, se tu avessi dei problemi, tipo, non avresti difficoltà comunque a rivolgerti a una figura professionale che ti sa guidare in queste cose. Vedi, perché privarsene, ragazzi? Ragazzi, la cena dei regini era l'angolo delle notizie, noi torniamo da un piccolo spazio pubblicitario, mi raccomando commentate la cena chioccia del bacco.it, il bacco.it per seguire questa, per queste ed altre puntate della trasmissione, non distraetevi come sta facendo lei, noi torniamo subito da un piccolo spazio musicale. I've been searching for the answers, but in everything they've sold, my eyes wander like two lost soldiers who've already lost hope. But when they finally look to something with the desire that it's home, they'll only realize they're forgotten, left as a pair yet still alone. If all we did was in take care, never gave a thought to why it's there, there'd be no idea of what's above. Just here, just now, just love. I always keep my mind open, but the air dries until ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Questa sera un ospite molto particolare. Intanto lasciamo rilassare i ragazzi della cena dei regini che si stanno comunque rilassando un po', perché stanno facendo la cena bendati e la cena al buio, quella a tema un po' particolare. E noi andiamo a conoscere un ospite che il buio l'ha esplorato. L'ha esplorato nei panni del famoso indagatore dell'incubo e stasera è qui a parlarci di questo ed altri suoi progetti. Ragazzi, benvenuto a Dennis Frison alla cena dei regini, un applauso. Ciao Dennis, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie a tutti, sono onorato di questa partecipazione speciale, do un saluto a tutti i partecipanti di Cena al Buio. E là. Ciao. Ciao. Ciao. Vi salutano tutti, la Cena dei Regini ogni settimana raccogliamo queste persone che vengono qua a condividere del cibo e quindi a stare assieme. Ma parlaci un po' di te, inizia a presentarsi per chi non ti conosce, chi è Dennis Frison, di cosa ti sei occupato fin qui, il tuo percorso artistico fino a questo punto? Allora, in sintesi possiamo dire che principalmente sono conosciuto per aver diretto e interpretato appunto Dylan Dog nel primo film, che era Dylan Dog, La morte puttana, ed è un fan film dedicato appunto all'indagatore dell'incubo, che è stato girato tra Venezia e Londra. Mentre adesso stiamo girando il sequel, che sarà un omaggio sempre a Dylan Dog, che però si scontrerà con Freddy Krueger. Infatti il nome è Freddy vs Dylan, e il film sarà presentabile verso aprile. Ne arriviamo subito a parlare, quindi grande escalation. Lui è attore e regista, si occupa di queste produzioni che possiamo definire indipendenti, giusto? Comunque sono esattamente. Esattamente. Hai avuto sempre questa voglia di portare Dylan Dog, questo personaggio, sullo schermo. Da dove nasce la voglia di rappresentare Dylan Dog e quanto è simile Dennis a Dylan e viceversa? Allora, partiamo dal fatto che io fin da piccolo ero un gran fan appunto di Dylan Dog, e quindi avevo sempre sognato di vederlo nello schermo, quindi di vederlo in vita reale. E quindi dopo aver visto il Della morte e dell'amore del 94, da lì mi rimase proprio il desiderio di poterlo vedere, finché una sera, non troppi anni fa, mi sono detto: Dennis, o lo fai tu o non lo fa più nessuno. Grande. E questo è stato, diciamo, l'input. Mentre per rispondere alla seconda domanda, posso dirti che c'è tantissimo tra Dennis e Dylan, nel senso che anch'io sono vegetariano, anch'io sono attirato comunque dal mistero e studio un sacco di cose, diciamo, un po' particolari, quindi in realtà posso dire che c'è davvero tanto, ma non mi posso sbilanciare. immagino, e poi chiaramente un percorso ancora lunghissimo. Ma adesso tu stai lavorando a Dylan vs Freddy, questo film che sì, rappresenta lo scontro di due vere icone a livello comunque, diciamo, narrativo e in generale cinema, fumetti e via dicendo. Da sì, dove nasce questa idea, cioè questa di creare questo scontro? Allora, diciamo che come per il primo film, che l'idea principale era quella di poter vedere un film su Dylan Dog, e anche un po' ammetto il desiderio di poterlo interpretare, e ho preso il mio eroe, che appunto era Dylan, e l'ho voluto far scontrare con l'incubo che quando ero bambino mi affascinava e mi inquietava, che appunto era Freddy Krueger. E quindi mi sono detto: abbiamo fatto 30, abbiamo fatto 31, facciamo un 32. grande, e quindi semplicemente l'idea di unire queste due icone della gioventù, insomma, della... era un piccolo sogno, diciamo. giustamente. Ma poi le tue produzioni, continuando a parlarne, si presentano in maniera abbastanza imponente rispetto comunque a quello che è il panorama delle autoproduzioni, soprattutto quelle che vediamo crescere sul web. Nei tuoi film abbiamo visto tante comparse, luoghi veramente pittoreschi. Come fai? Nel senso, qual è la molla per cui, ad esempio, un proprietario di una location ti dà lo scatto per cui ti dice: ok, utilizza la mia location per fare un film? Come fai a coinvolgere talmente tanta gente? C'è un segreto? Diciamo che il difficile è stato più all'inizio, quando che appunto non avevo fatto quasi niente, e quindi cercavo con molta umiltà di andare nel posto che mi serviva, tipo possiamo ad esempio citare lo stadio che mi servì nel primo film, e mi sono presentato cercando di spiegare qual era il mio sogno, il mio scopo, che quindi era un progetto anche senza fini di lucro, e penso che la comunicazione sia sempre stata la chiave per ottenere tutto questo. Quindi le persone sono, secondo me, molto pronte a darti una mano se ti poni nel modo giusto. Quindi semplicemente empatia, diciamo. Sì, credendoci e insistendo nel senso giusto, cercando se trovi una porta sbarrata devi comunque continuare, se hai un obiettivo lo devi portare a termine. Chiaramente. Dennis, tu comunque anche sei principalmente un ragazzo di Spinea che sta in provincia di Venezia, questo piccolo centro, possiamo definirlo così. In sì, che modo la visione dal piccolo centro può anche assomigliare a Reggio, tra l'altro, In che modo questo piccolo centro ha favorito, ostacolato i tuoi progetti? In che modo l'hai vissuta questa posizione? Io posso dire che Spinea mi ha aiutato tantissimo, nel senso che essendo comunque cresciuto in questa piccola città, mi sono trovato ad avere molte persone che mi hanno aiutato, che mi hanno appoggiato, e poi è stata una cosa che è venuta da sé. Per esempio, ho cominciato a collaborare con i carabinieri delle mie parti, e dopo la prima volta che hanno visto l'impegno si sono offerti di aiutarmi anche in seguito. Quindi secondo me, quando tu lavori in un certo modo e crei delle cose positive, è un cerchio che appunto porta della positività indietro. Quindi un po' si collega anche alla risposta precedente, diciamo. Sicuramente devo tantissimo alla mia città, questo sì. Bello, quindi viverla in maniera assolutamente positiva. Adesso la domanda finale è quella che faccio a tutti gli ospiti della Cena dei Regini. Tutti sono confrontati con questo scenario. Dennis Frison, sindaco di una città italiana per un giorno. Quali sono le direttive che attueresti subito per migliorare la situazione? La puoi localizzare in Spinea o comunque in qualsiasi città italiana tu voglia, cioè in generale. Guarda, risponderò in un modo molto simpatico, in quanto credo che il panettiere debba fare il pane e l'attore debba fare l'attore. Io proporrei di non lavorare per un giorno intero e volersi bene tutti quanti. Al massimo facciamo l'amore e basta, tutta la giornata. Fantastico. Senti, qua c'è un posto da sindaco quasi libero. Ti faccio sapere tra un po'. Shh, tranquillo. Guarda, se avete degli incubi da quelle parti, indosso la camicia rossa e mi precipito e porto anche crucio. Grande. Ragazzi, ringraziamo Dennis che ha partecipato alla Cena dei Regini. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. cena@ilbac.it per commentare a questo blocco, ilbac.it, e clicca la Cena dei Regini per seguire questa e tutte le altre puntate. A tra poco. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, cena al buio, puntata molto speciale. Loro adesso si stanno rilassando, stanno gustando, potendo anche guardare quello che si va a mangiare, una cosa veramente particolare. Ma soprattutto adesso passiamo all'angolo della classifica, la nostra classifica, quelle più strane, più particolari. Inanelliamo dei punti chiave nella vita dell'essere umano. Così, essendo che comunque questa puntata è dedicata al buio, la classifica sarà sulle 12 paure più diffuse nel genere umano, quindi quelle più comuni, esattamente. Alla 12ª posizione la paura del sangue o emofobia, che pensa fa veramente tremare molte persone. C'è l'idea che tu vedi del sangue, però ti dà fastidio. Perché? Perché non è dove dovrebbe stare, non lo so. Ma a voi fa paura il sangue? Il sangue, la vista del sangue, non vi turba? Ovviamente, quando è finto. Ma quando è vero? No, nei film sì. Nei film sì, nella realtà no, quindi al contrario. Cioè, bellissimo, questa, e invece a te tu lo senti, no, questa. Ma è una ferita, sì, ma sangue puro no. Cioè, estrapolato dal contesto, no. Cioè, vedere che ne so una provetta con del sangue, no. Se vedo uno che c'ha uno squarcio in un braccio, vabbè, là o sei insensibile, oppure ti trovo squarcio in un braccio, vuol dire un'altra, un'altra cosa sintomatica. Però comunque, in genere, il sangue soltanto non ci fa. Ho paure peggiori, no. E poi le andremo a scoprire. La numero 11, ragazzi, la paura del buio, nictofobia, che comunque ha preso tra l'altro notevoli posizioni rispetto al passato. Questa è la classifica aggiornata al 2014, quindi comunque la più molta più gente ha paura del buio. Perché? Perché si ha paura del buio? Si ha paura dell'ignoto. Dell'ignoto, oppure? Del cibo. Li ho complessati adesso. Li ho complessati. Ora qualsiasi buio rappresenta cibo nascosto. No, beh, nel buio cosa si cela là? Il Leatherface. Esatto. Quindi comunque paura del serial killer che si cela nel buio. Questo dice per stare proprio perfettamente in tema con la puntata. Ma la numero 10, ragazzi, è una paura molto particolare che avevo riscontrato anch'io, che però comunque è ancora di nicchia, diciamo così. La paura dei clown o clownofobia sta prendendo tantissimo, cioè il clown fa sempre più paura. Da It in poi ci ha segnato. Ma perché? Perché i ragazzi, il clown. Anche tu hai questa. Se tu dovessi vedere un clown. Non proprio paura, però. Mi però inquieta. Così. Non ci andresti a bere un caffè con un clown? Perché? Mi inquieta. Ma c'è qualcosa che ti turba particolarmente, oppure la figura in generale? Non so. Tutti quegli attrezzi, quelle cose, chissà. Se sto mascherone fa. Mascherarsi per te, chissà che vita avrà avuto. Per arrivare a quei livelli e quindi dici. Invece a voi i clown. Addirittura i fan dei clown non vi fanno questo effetto. Il clown che. No. Che fa il clown nella vita? Rido oppure? C'è sempre un clown. A tua ti proponi come clown. Ma vabbè, ma lui lo possiamo mandare. Se lo dobbiamo mandare nel circo, mandiamolo al circo. Cioè, voglio dire. Perché fare il clown è una responsabilità. Cioè, è un'arte al servizio dei ragazzini e degli altri, eccetera. Ma poi il clown, quando non è clown, cos'è? Una persona clown. No. Arriva a casa con la mascherina, si mette davanti alla TV, una birra, picchia la moglie. E basta. È un clown. Perché un clown senza maschera non dovrebbe essere un clown, dovrebbe essere un clown in borghese. Una cosa del genere. Ma comunque, ragazzi, clownofobia, paura dei clown, sta prendendo tantissimo. Coulofobia. Queste sono le nuove paure del XX secolo, perché comunque stiamo prendendo. Alla nona posizione l'agorafobia, quella degli spazi aperti. È un grande classico, anzi mi meraviglia che sia solo alla nuova posizione, perché comunque è una cosa molto comune. Quanti? Tu ancora senti? Arriviamo anche da te. Lo spazio aperto per te cosa vuol dire? Potrebbe arrivare qualunque cosa da qualunque parte, non lo so perché, ho proprio... non capisco niente. Quindi uno spazio aperto, tu lo immagini tipo uno deserto? Uno spazio aperto senza... Una stanzone già ti fa effetto. No, una stanzone no, una piazza senza monumenti, senza... Perché già il monumento cambia. Sì, è proprio l'idea di uno spazio molto largo senza niente dentro. Fantastico. Perché anche lei ho pure degli spazi piccoli. Ah, arriviamo. Voi spazi aperti niente, tranquilli. Ragazzi, ognuno ha il suo giustamente punto debole, chiamiamolo così. Pensa al numero 7. Nel no, la paura degli aghi, la belonefobia. Paura degli aghi. Gli aghi. Ma gli aghi. Qualsiasi cosa appuntita, magari gli aghi. Non li conosciamo più per un senso medico, diciamo così. E questa cosa sta prendendo anche parecchio, sta scalando qualche classifica. La paura degli aghi. Poi va a cercare un posto di lavoro e nei problemi, perché dice. Questa è effettivamente una paura un po' triste, perché comunque la paura degli aghi, bah, nella vita quante volte ti capiterà di affrontarla. Ma alla numero 6, ragazzi, se ci fossimo dimenticati di questa paura atavica, soprattutto diciamo presso un sesso anziché un altro, la paura dei topi. O musofobia, ragazze, quante hanno la musofobia qui? Lei subito conferma. Musofobia. Fobia proprio no, però cioè, se lo vedo. Perché il topo. Topo è la carta pazza, diciamo così, cioè fa paura il fatto che sia imprevedibile. Portare malattie, magari, se ti muore. Vedi, però sono due cose diverse, cioè lei è un fatto estetico, tu no, già sei. Topo estetico no. Sei più sul e poi, ecco, se parliamo di ratti, se parliamo delle gaviette o di ipocriceti, no, quelli mi piacciono da morire. Parliamo proprio di ratti, ecco. Vabbè, il ratto è. Ecco quello proprio. Ragazzi, il ratto è una cavietta che ha dovuto adattarsi all'era moderna. Cioè dai, perché... più grande, più muscoloso, più importante. Anche. Questo razzismo animale. Questo specismo. Meraviglio di voi, cioè voglio dire. Guardalo sotto questo punto di vista, che ti sta suggerendo una cosa importante. Io non posso dire. Lo sappiamo dove la Oh sì, noi abbiamo conoscenza, è meglio non citare negli episodi che potrebbero essere a rischio di denuncia. Andiamo avanti. Intanto i gatti me li portano, Sì, anche la piccola. Io faccio la polvere. Alla numero 5, ragazzi, classico, claustrofobia, i spazi piccoli. I spazi, perché lo spazio piccolo fa paura? Mi sento soffocare, mi manca l'aria. No, per me era una battuta, dai. Niente, in generale. No, ci arriviamo. Claustrofobia, chi non ha paura di uno spazio piccolo, che può essere, ad esempio, una se scatola. Se mi chiudo in una scatola, sì, ovviamente. Vabbè, perché l'ascensore, rimani chiusi in ascensore. No, già un ascensore. Però se essere chiuso senza possibilità di muovermi, sì, ma quello penso tutti. Darebbe fastidio a chiunque, immagino. Io trovo fantastico che qualcuno fabbrichi una scatola a dimensioni umane per poi chiuderci un uomo dentro. Si chiama Barabak. Non volevo farti esplodere la testa, però. È fantastico che esista. Beh, ma chiudere un uomo. Ci si da morti. Quindi dove le fobie non ci sono più. Che se modificano una bara non deve essere morto per forza. No, non ho visto sì. CSI, scusa. Pure Dracula, ho visto. Che c'è? Oppure. Ma è morto Dracula. Oppure sei un mio amico e ti sto facendo un pessimo scherzo. Ma ragazzi, è il numero 4. Ragioniamoci. Tra l'altro la barra era una delle cose che cercavamo per un video e cerchiamo ancora adesso. La numero 4, ragazzi, grande classico: aracnofobia. Chi non ha paura dei ragni? I ragni non fanno paura. Io e mio padre, dicevo da piccoli, li prendevamo e li mettevamo negli angoli per fare ragnatele, così catturavano le zanzare. Questa guarda, questo metodo biocompatibile, sì, per fare ecologico, anziché usare i DDT. Bello, penso. Ancora ogni tanto lo faccio, in casa mia non ci sono insetti. Anch'io, solo ragni. Vedi, anch'io li tengo, ma non lo faccio apposta, perché proprio fanno anche un po' d'arredamento, quelle cose, no, un po' non fanno hipster. Spider. A te non fanno impressione i ragni, cioè l'idea del ragno come... No. Incogni, come... No. Come niente. I topi mi fanno male. No, sempre questo razzismo, sempre questo razzismo. Ragazzi, alla numero 3, importantissimo se visiti Laos, glossofobia, la paura di parlare in pubblico. La paura di parlare in pubblico. Quando tu vuoi parlare... ma ti blocchi, la senti questa, cioè, no, ad esempio di noi, però se dovessi, che ne so, magari a una conferenza di fronte a un pubblico, una platea di gente, cosa sentiresti? Immagina che ci stessero guardando tante persone, centinaia di anni, mi sentirei di avvampare, balbetterei, capite ragazzi? Che c'è? No, panico, non avvampare. Vuoi dire qualcosa? glossofobia, parlare in pubblico. Ad esempio, un messaggio da lanciare in pubblico. Di là in pubblico. Beh, l'ha presa con filosofia, quindi voglio dire. Glossofobia. Essendo cantante sarebbe un po' stupido. Ah boh, magari c'è l'arte che ti... No. Se tu devi fare un discorso, se... Ma che discorso sarà? Ma pure io che ti chiedo. Ragazzi, veramente. Alla numero 2, la tavica, paura dei serpenti. Ofidiofobia. Paura dei serpenti, sì, dai. Sì. No. Avevo il serpente. Ora ci arriva. Paura dei serpenti, tu no. Tu sì, no, cioè, un no. Serpentino giocattolo lo lanciavo su mia zia che aveva pure i serpenti. Il tuo rapporto col serpente com'è stato? Cioè, c'era il serpente. Partiamo dal presupposto. Non l'hanno perché tu non sei dei problemi nell'attirare, però no. A differenza di quello che si crede, il serpente è come la terra, cioè non è né viscido né. Quando tu lo accarezzi sembra sella, mm-hmm. È una bella sensazione, molto rilassante, è quasi zen. Bellissima questa cosa. Prima Adamo, devi sapere che Adamo. Anche, era anche una possibile Eva, perché loro prima a una certa età non hanno l'apparato sessuale, quindi nel frattempo era donna. E poi si è sviluppato... Fantastico, e tu avevi un dialogo con lui, cioè c'era un modo di comunicare col serpente? No, non esiste. No, praticamente lo tenevo in mano, tutto ma ci dava il braccio, era una forma. No, non era molto grosso, era un po' buono, era un po' buono, era un po' piccolino. Ah. Vabbè, interessante questa cosa. E lui riconosceva la tua mano, cioè nel senso che... No, perché non hanno questa... Cioè non si affeziona alla tua no, serpente. No, perché c'è questa leggenda metropolitana sul serpente. Mm-hmm. Non è vero che si affeziona. Perché sono intelligenti, quindi al primo posto, ragazzi. Andiamo avanti, al primo posto. La paura più diffusa nel genere umano resta... Della morte? Sai che quella non c'è? Delle paperelle. Delle paperelle oppure? Quale può essere? Una paura diffusissima. Di volare? Di volare oppure? Dell'aereo. Dell'aereo, quella della manca pure, invece è la paura delle altezze. Quindi ci siamo quasi. Le vertigini. L'agrofobia, quelle che sarebbero vertigini. la maggior parte delle persone ha dichiarato di essere insicura rispetto alla paura delle altezze, quindi è la cosa più diffusa. E questa comunque penso che ce l'abbiamo tutti. No, non ho più paura delle paure. Ora ce l'abbiamo. Invece la vostra paura, quella atavica, quella che vi accompagna un po' da sempre, che vi fa riflettere. Ma io che... la claustrofobia. La claustrofobia è tra tutte quella. Sì. Una paura, Andreina. Paura di qualcosa. Delle vipere. Delle vipere. Delle vipere. Perché comunque pericolosa, eccetera. Di guidare. Guidare. Cioè tu in prima... non essere trasportata. Di guidare lei. No, ma ognuno ha la sua. Una paura. Oddio. Ah, le unghie. No, no, no, sai che anche questa è diffusa come paura. Come ci avete in questo appicchino? Magari un incidente, una porta, qualcosa si alza lunga. Solo a pensarlo ti fa schifo. Giustamente, paura atavica, una paura che ti accompagna. Scarafaggio. Scarafaggio, classico. Una paura. Scusa, perché lo dici in quel modo? Perché so che adesso mi direi le paperelle. Ovviamente no. Certo. Le altre. Ah, ecco. Le papere sono belle. Perché le anatre ti fanno paura? Perché sono cattive, sono hanno quel. Ma che quei dentini strani. Sono le oche quelle. Ah. Ma non hanno. Sì, le oche. Cambiamo. È la stessa cosa. No. Ehi, no. Corri. I vipere. Ma hai avuto esperienza con una vipera che ti ha attaccato? Io non c'è che in montagna. Ah, quindi comunque è giustificata la cosa. Ma come fanno loro? Prendono una bottiglia così, no? La prendono per il collo e la fanno dentro. Ma perché c'è un'esperienza, immagino che non. E loro non la fanno là su. Ma se salvo. Sì, certo, saranno esperti. Bisogna addestrati. Ma come fanno in farmacia, non so cosa ci fanno. Perché dovrebbero portare la vipera in giro? Che cioè questo... Forse estraggono il veleno per fare, l'antidoto. Okay. Ragazzi, ognuno ha la propria paura e direi che sia giusto così. C'è la chiocciolabacco.it per raccontare la tua paura, perché quale paura ti accompagna da sempre e puoi raccontarla anche a noi per le prossime puntate. La paura del back, vedi? Ma perché io ormai ho troppe paure ormai sono veramente ferrato, sono pronto a tutto, ad affrontare tutto, quindi devo andare avanti così. Ragazzi, c'è una corsa di back.it per commentare appunto questa trasmissione, il back.it, e clicca la Gianni Regini per seguire tutte le altre. Siamo alla terza stagione e noi torniamo settimana prossima con la cena dei Regini. Un applauso a noi stessi. Ciao. up this generation again. You think we won't stick to your kind? Don't hedge your bets, cause we've already lost our minds. So free, no one can make a mic clap his hands like we do. I need to make brains blast like they have a dose of crack. Battle every tech till they have a rap attack. And I rap, that's the passion I have. Are you mad? Cause it's part of my genes. I had to count our position. 1, 2, that's normal competition. Scooby Doo Bop, watch the bomb explode. Riding for my bro, so I put a show. Grabbing a mic to speak about our dreams. This is how we roll. How we roll. I'm waking up, I'm waking up. I rise from where I start. Hey, I get around, I get around. Stay true all of the time. Oh, here's your chance, come and take it. Don't be scared, there's no limitation. To revelation and inspiration, yeah. Scooby Doo Bop, watch the bomb explode. Riding for my bro, so I put a show. Dropping a mic to speak about our dreams. Dreams, this is yeah. How we roll. How we roll. Yo, it's as if I was on crack. This dope called rap, while some of you guys use it, I'm here to distribute it. Don't test me, I'm breaking bad material. Yo, gangster to engage, I'm here to give the dose. Everything around is idolized.